è frutto dell'amore, dell'unione di due corpi o dentro un vetro trasparente. Cellulari, moltiplicazioni, massa cellulare, una sfera cava, tre strati germinativi danno origine agli organi dell'embrione. E cresce il feto dentro alla madre, si sviluppa fino alla nascita. Primo respiro, primo vagito, affermazione dell'esistenza. Movimento e linguaggio, lo sviluppo infantile, il controllo del corpo, l'evoluzione, giocare, apprendere dai genitori, dalla società, dagli educatori. Fasi d'infanzia, la fanciullezza, molte risorse, spensieratezza. Una svolta, c'è il cambiamento, la pubertà, l'adolescenza.